abbiamo un pericolo ulteriore da parte di questo governo di Bolsonaro, allora abbiamo bisogno di un'altra. E allora vediamo che il parere è già diventato la politica. Noi abbiamo un tempo per il parere con il parere così grande a vedere la politica. Allora, non sarà dire che non è che stiamo di lato, ma non è tempo di lato. Ecco, quello che è la nuova della città, e tornare in un risultato del giusto di nada, più o meno, dall'anno di che non è tempo. La prima è la nuova già di giorni, la nuova di città, non è stato in tutti i modali, ma più grande, ma per la parte di noi, non è stato fatto anche nella nuova, l'ultima, come si chiama, la nuova, la nuova, la nuova, خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.